Cruciani. Cruciani, porca miseria, ma si rende conto che qui a Pisa, quando ho dato la voce per il telefono, la gente si abbracciava in piazza. Ma si è sfogato lei, Giovanni? È Belvita, Cruciani. Ma si è sfogato, Cruciani, Giovanni? Questo è un paese che è tranquillo. Si è sfogato, è Giovanni? Ogni tanto qualcuno però si imbelvisce. Si è sfogato? Io mi sono imbelvito, Cruciani. Ma si sente? Perché lei avrebbe dovuto rispondere. Ma si sente, Giovanni? Probabilmente sa di essere colpevole. Si sente, Giovanni, che lei si è imbelvito? Perfettamente. Ma si sente che lei si è imbelvito? No, ma imbelvito molto, Cruciani. E si sta sfogando. Non si imbelvisce più nessuno. E fa bene. Ma nemmeno quelli del PD si imbelviscono. Si imbelvisca lei, allora. Mi imbelvisco, e che cosa devo fare? Si imbelvisca, cosa vuole che le dica? Quando sento una cosa del genere da lei, che dovrebbe essere quello che alla radio dà un impulso a questo paese. Ma io anche non do... lei si sbaglia, io non devo dare l'impulso a nessuno, guardi. No, sì, deve dare un impulso. Ma si sbaglia, io non devo dare l'impulso a nessuno. Lei deve essere equidistante. Devi essere qui distante, ma deve dare un impulso. A lei, se Berlusconi si dimette, lei è contento o no? Ma non mi interessa. È un discorso che non mi interessa. Secondo cosa mi risponde? Non sono... non la sento più la sera. Ecco, Giovanni, guardi, le rispondo subito, probabilmente lei non mi ascolterà più la sera. L'ascolto perfettamente. Ecco, mi sente, sì. Mi sono disimbelvito. Oh, meno male. Allora, a me, se Berlusconi si dimette o non si dimette, non me ne importa assolutamente. Non me ne frega niente. Questo è gravissimo. Perché vuole che le dica? No, lei pensa così. Però Giovanni, resti con me, la prego, resti con me, finisca il suo imbelvimento, si sta rimbelvendo di nuovo. Com'è Giovanni? Si è disimbelvito? No, ma io sono così, esplodo e poi sono tranquillissimo. Sì, no, io sono quasi più imbelvito, sarò poco imbelvito con Berlusconi, ora più. Ma sono quasi più imbelvito con lei, Cruciani. Addirittura, aspetta, riprendiamo un attimo, Giovanni, mi faccia sentire i titoli di TG, magari con il titolo del TG5 si imbelvisce ancora di più. TG5. Illegittimo il lodo Alfano, per la Consulta serviva una legge costituzionale e violava il principio di uguaglianza. Al voto Corte divisa, 9 no contro 6 sì. Berlusconi, vado avanti come deciso dagli italiani, la Corte è di sinistra, opposizioni divise, per il PD fatta chiarezza, Di Pietro, dimissioni, poi si voti, Casini, non è il giudizio universale, lavorino, Bossi, se si ferma il federalismo sarà guerra. La Commissione europea ha avviato per 9 nazioni, tra cui l'Italia, una procedura per deficit eccessivo, Tremonti, nessuna novità, solo 7 paesi su 27 sono in linea. G8 di Genova, assolti l'ex capo della polizia De Gennaro e della Digos Mortola, non depistarono le indagini sul blitz alla Diaz, rinviato a giudizio l'ex questore. Catturati in Spagna gli assassini del romeno ucciso da un proiettile vagante nella metro di Napoli, pensionato aggredito e ucciso a Torino, fermato un 18enne. Blevio sul lago di Como, il paese con più divorziati in Italia, oltre il 16%, stupiti gli abitanti, in casa andiamo d'accordo, forse hanno sbagliato i conti. Paolo Bonolis torna stasera su Canale 5 con Chi ha incastrato Peter Pan? Protagonisti i bambini con la loro ingenuità, tra gli ospiti Mourinho. TG1, titoli. La Consulta maggioranza illegittima la sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato. Serviva legge costituzionale. Berlusconi, sentenza politica, Consulta di sinistra, vado avanti, maggioranza compatta col Premier, opposizione, ristabilito principio d'uguaglianza. G8 di Genova, l'ex capo della polizia De Gennaro assolto per l'irruzione alla Diaz, era accusato di aver spinto il questore a mentire. Alluvione di Messina, si indaga sui piani regolatori, si cercano ancora i dispersi, sabato lutto nazionale per i funerali solenni. E caccia in Brasile al conduttore narcotrafficante, lo accusano di aver commissionato omicidi per aumentare l'audience in TV. George Clooney a Sulmona per il suo nuovo film L'Americano, accompagnato da Elisabetta Canalis, il divo scatena l'entusiasmo dei fans. Allora, caro Giovanni, però non vale, lei si è fatto consigliare la sua strategia dalla moglie. No, mi ha soltanto detto di non imbelvirmi. Ah, così le ha detto? Mi ha detto così, perché ma lei è davvero imbelvito? Ma lei era... sa anche che mi passa subito. Ma lei era davvero imbelvito o no? Ero imbelvito, Cruciani. Ma con me? Io che cosa... che le ho fatto io lei? Ho perso leggerissimamente il controllo. Ma che le ho fatto io, Giovanni? Che le ho fatto? No, cosa mi ha fatto lo vuol sapere? Eh sì. Ecco, allora, parto leggermente da lontano. Ieri sera ho sentito Mughini. Sì. Lei con Mughini è d'accordo per una ragione particolare, che tutte e due siete equidistanti. Ecco, a me l'equidistanza non piace. Attenzione, non mi fraintenda. Lei è un laico ed è giovane. Io sono un laico, sono una persona più anziana, ma sono molto laico. Io mi definisco un comunista liberale. Liberale perché sono per i diritti civili, tutti. Mm. E credo anche lei. Io comunista liberale è bellissimo. Il comunista liberale è molto... È stato ripetuto il diritto di uguaglianza. Semplicemente. Io le voglio ricordare che Filippo Facci, dal giornale, non so se sia venuto via o verrà via, perché dice che non si può scrivere contro la ministra Carfagna. Questa cosa qui, che è infinitesima in confronto alle cosette che possono succedere sulla disinformazione, però a me mi fa pensare male. Mi fa pensare male, Cruciani. Ma lei pensa male perché non conosce il mondo dei giornali. E il fatto che Facci dica di essere andato via perché non ha potuto scrivere una cosa sulla Carfagna, però ha potuto scrivere il 99% delle cose che ha fatto. Ho capito, però lui si ricorda che Filippo Facci a Pannella l'ha sentita quella trasmissione, forse non l'ha sentita. Però lei è un giornalista, porca miseria, Cruciani, deve sentire tutto come faccio io. Ma io sento tutto, io non sento tutto. Non so da fa nulla e sento queste cose qui. Anche lei deve... Allora, Filippo Facci da Pannella ha detto che lui è sempre tutto sommato d'accordo ancora per un po' con Berlusconi. Però ha detto che Berlusconi si è circondato di tali cialtroni che in 42 anni l'età che lui ha non l'aveva mai visto. Può darsi, Giovanni, ma... Io sono d'accordo in parte, perché secondo me il cialtrone... lei sa chi è, e invece qualche ministro potrebbe essere salvato, però lui ha detto così. Se lui ha detto così, ed è un giornalista che si interessa molto, io che sono un poveraccio che sta a Pisa, la città di provincia, cosa devo pensare? No, però Giovanni, lei mi deve dire perché si è imbelvito con il sottoscritto, con me. Perché prima di dire che Berlusconi non si fa processare perché pensa una certa cosa, cioè che i giudici siano contro di lui, erano 11, ora sono diventati 9, forse quei due a cena parlando dei giudici di Milano, Milano, non quelli della corte. Prima di interpretare Berlusconi su questo piano, avrebbe dovuto, e lo so che lo pensa Cruciani, questo, ma Cruciani, ma se lei gli dice una cosa malissimo di Berlusconi, la cacciano fuori guardi, lei si sbaglia, Giovanni. Oh, esatto. Esatto, io sono d'accordo con lei, non lo credo. E quindi, se non lo credo, perché prima non gli è venuto in mente che potrebbe essere colpevole? E quindi non si va a processare. No, perché la colpevolezza o meno di una persona non è che... Ma se uno non si fa processare, Cruciani, vuol dire che sa di essere colpevole, se no... Perché non si è fatto processare? Tranquillamente, serenamente, come diceva quell'altro, con tranquillità. Guardi, e veniva fuori da questo ginepraio. Lui si è immesso in questo ginepraio perché sfugge dai giudici. Ma i giudici non sono tutti comunisti, non lo sono quasi nessuno. E tutti quelli che lo hanno, a parte le prescrizioni, quelli che lo hanno assolto. Allora perché non dice quelli che non mi hanno assolto sono tutti di destra? E quegli altri che non mi hanno ancora condannato come sono, Cruciani. Senta, quanto Giovanni, non ha ricevuto una condanna. Le dico un'altra cosa. C'ha gli avvocati bravissimi, c'ha Ghedini che dice ma va là, e non è vero, non è le vero. Le dico un'altra cosa, Giovanni, un'altra cosa. Pochi minuti fa Berlusconi è andato a una mostra, c'era anche il cardinal Bertone, no? L'ho sentito. Il segretario di Stato Vaticano. Pure questo ha sentito. È collegato con tutto lei. Io sono collegato con tutto, ho 10 orecchie. È andato a una mostra e sua moglie che dice del fatto che lei dalla mattina alla sera sente queste cose? Sì. Che dice sua moglie? Non è un po' spaventata dal fatto che lei dalla mattina alla sera è collegato con mille televisioni, radio, eccetera? Lei lavora e lavora anche duramente, è collegata. Lei lavora e invece lei che fa? Sono d'accordo completamente con me. Cioè sua moglie lavora e lei che fa invece? Io sono più estremista probabilmente. No, ho capito, ma sua moglie lavora, lei invece non lavora? No, sono pensionato. Cioè sua moglie lavora e lei è pensionata, è strepitosa questa. Sì. Vabbè, perché? Un'inversione dei ruoli, no? Aspetta. Sono più vecchio. Beato lei, Giovanni. Sono più vecchio, sono pensionato. Beato lei. La mostra è bellissima, senti qua. La mostra è bellissima. Senta, le davo già del tu perché eravamo entrati in confidenza. La mostra è bellissima. Sì, magari. Ma ho visto il catalogo e ho detto a Sua Eminenza, cioè al Cardinal Bertone, che c'è una grave lacuna, manca il ritratto di San Silvio d'Arcore, che fa sì che l'Italia non è in mano a certi signori della sinistra. Sì. Ma sapeva pure questa, sapeva? Sì, ma questo diventa... Cruciani, ma voglio dire, io... Allora, Cruciani, io mi imbelvisco, ma non quanto potrei essere imbelvito, e qualcuno mi ha visto veramente imbelvito negli anni 60-70, mi ha visto veramente imbelvito, perché io Berlusconi e tanti dei suoi non li prendo sul serio. Io uno come Bonaiuti non lo prendo sul serio, uno come Berlusconi non lo posso prendere sul serio, per tutte le cose che ha detto, che ha fatto, che ha ridetto il contrario, che ha fatto, non riesco a prendere sul serio. Siamo in un basso impero, ma non sono i soli. È un uomo da operetta, ma non sono i soli, da non prendere sul serio magari. No, sono d'accordissimo, sono per carità, non mi dica della sinistra, per carità. Chi le piace di più? Bersani, Franceschini, qualcuno non gliene frega niente. Guardi, sono molto incerto. Ieri sera Franceschini ha detto delle cose a Ballarò che secondo me erano banali, che sia un genio. Però tutte precise, tutte molto argomentate e molto secche. A un certo punto ha chiesto a Bondi: ma perché lei è qui per difendere? Per difendere o per essere contro la sentenza civile, cosa ci fa? E lui ha detto, e lui non sapeva ovviamente cosa dire, e gli ha risposto: perché lei è contento di questa sentenza. Cioè ha attaccato in questo modo, era completamente perso Bondi, si vedeva benissimo. Poi dunque Franceschini un po' le va a genio. 20:14, sempre con Giovanni da Pisa, poi c'è Stefano da Milano, Gianfranco da Palermo, però devo dire Giovanni, qui ho 10, 20, 30, 40 messaggi, gente che vuole avere il suo numero di telefono, gente che dice che lei è come Benigni, gente che dice che lei deve essere ospite fisso a questa trasmissione. Ma sono convinto, ma i miei amici lo sanno. I suoi amici sanno cosa? Sanno che io sono un trascinatore, cioè sono uno che quando parte posso trascinare anche un treno, ma un tram sì. Allora Cruciani è da 60 anni che mi occupo di politica, e mi occupo di politica e di calcio, come Mughini. Mughini non mi è piaciuto, io sono elegante come Mughini. Ha presente Mughini come elegante? Sì, certo. A me piace moltissimo Mughini come si veste. Lei si veste come Mughini? Che mi desse lei il numero di telefono di Mughini per chiedere dove trova quei vestiti. Io lo so, io ho milioni di cose, sono un collezionista e vesto in maniera veramente un po' diciamo per la mia età un pochino troppo. Un po' dandy diciamo. Ma no? Anche lui è estrosissimo. Però a me Mughini non mi piace quando dice che è equidistante come lei. Cioè la passione politica. Voglio dire, se tutti fossero come voi due non ci sarebbero i partiti. Non esageriamo, Giovanni, però voglio che lei mi dia un giudizio su Gasparri, perché secondo me le sta leggermente antipatico. Senta cosa ha detto, ma l'avrà ascoltato durante la nostra trasmissione oggi da Fede. È una decisione politica, è una decisione di parte che mette proprio fine al ruolo di garanzia della Corte Costituzionale. Il giudice supremo è una sede di partito per prendere decisioni politiche. Questo è un danno per le istituzioni e per l'Italia. Molto bene, la ringrazio. Grazie. Fino ad oggi. Giovanni, su Gasparri, intanto Massimo ci scrive, fantastico Massimo. No, se Mughini ha detto che Di Pietro è subumano perché parla in un certo modo, ha detto una cosa che potrebbe anche essere superficialmente apprezzata, però è brutta perché prima di tutto non era presente Di Pietro e poi perché avrei preferito che lui avesse detto questo, ma poi avesse anche contestato pezzo per pezzo le cose che dice Di Pietro. Perché Di Pietro dice molte cose che sono vere. Per esempio, che lo scudo fiscale è un grande piacere. No, però lei mi deve parlare di Gasparri. Mi parli di Gasparri, perché no, mi parla di Mughini? Di Gasparri non posso parlare perché sono uno. Cioè, per me Gasparri è non subumano, è uno che probabilmente deve dire io che sia così imbecille, in senso latino, cioè senza bastone, in baculus, lo sa, perché è colto. E dico che sia così imbecille non ci credo. I latini dicevano allora? Baculus, senza bastone, cioè Gasparri è uno senza bastone, oppure c'ha molti interessi e deve dire quelle cose lì, cioè la malafede. Cruciani, lo spartiacque è la buona fede e malafede. Io credo che lei sia in buona fede. Meno male, almeno questo. No, io credo che sia in buona fede, però a volte quando dice certe cose, per esempio il discorso che fece un radioascoltatore da 15 giorni fa, che lei può attaccare Berlusconi ma fino a un certo punto, ma quando lo attaccano gli altri un po' di più si incazza, mi passi il termine, ha ragione, perché lei la pistola fumante contro Berlusconi non la vuol mai sentire, tende sempre a scansarla, e questo mi lascia perplesso. La imbelvisce, notte... la imbelvisce ogni tanto. No, no, di notte mi fa pensare, ma Cruciani com'è? Perché io lavorerei a cena, si potrebbe parlare, mamma mia, di Vante Ose, ci pensavo quest'estate quando era a Viareggio e in passeggiata c'era Lippi in cima al suo attico e Noemi con la famiglia giù in passeggiata, ma si rende conto se avesse telefonato in quel momento lì? Poteva essere uno spettacolo, no? Assoluto. Perché non mi ha telefonato? Traffico, torniamo subito. Giovanni, c'è il traffico, lei lo sa il traffico, no, non voglio riproporre Ferrara, lo sa il traffico. Eccoci, 20:19, Giovanni ospite fisso, e poi ancora lo voglio come direttore di Radio 24, altrimenti mi imbelvisco. Michelangelo, gente che chiede di mettere sulla segreteria telefonica, addirittura sullo squillo del cellulare, la parola quando lei ha detto io mi imbelvisco. Giovanni, un attimo solo però, perché gli altri ascoltatori sì, non vorrei, non premono. Lei è il leader questa sera, però Gianfranco sì. Da Palermo.